Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia d'Italia in 24 minuti. Per Garibaldi, viva! 1862, il sospetto caso delle ferrovie meridionali. Egli è stato banchiere di Mazzini e della casa di Lorena, a quegli dando, a questa prendendo e dando. Bastoggi è guizzato fra tutti i partiti, impaziente di rappresentare una parte politica nella commedia sociale. Cominciò da affari poco felici ed è oggi 5 o 6 volte milionario. Lo si dice abilissimo nelle operazioni di banca e nel maneggio degli imprestiti, restando sempre un perfetto galantuomo. A parlare è Ferdinando Petruccelli della Gattina nel suo libro Scandalo, i moribondi di Palazzo Carignano. Così il deputato lucano descrive il suo collega Conte Bastoggi, l'uomo che ha guidato le finanze con cavura e ricasoli e che ora è sulla bocca di tutti. Lo scorso agosto la Camera, prima di andare in vacanza, ha dato il via libera al progetto di Bastoggi, che ha così ottenuto l'appalto per la realizzazione delle ferrovie al sud, con una società privata da lui stesso costituita, la Strade Ferrate Meridionali. Il piano proposto da Bastoggi è semplice. Per sollevare dall'incombenza le malmesse finanze del regno, il banchiere toscano ha proposto la realizzazione in concessione di un piano di strade ferrate al sud, con la promessa di aprire a Napoli uno stabilimento per la produzione di locomotive. Con il sì del Parlamento, la società ha incassato 20 milioni di sussidio e lo sfruttamento per 90 anni di 1365 chilometri di ferrovia. Tra i suoi finanziatori ci sono i banchieri parigini Fratelli Pereire, la Camera di Commercio di Torino, la società di credito mobiliare spagnolo nel cui CDA figura il deputato Nino Bixio. L'appartenenza di molti soggetti coinvolti alla massoneria è stato un buon collante. Ma ora qualche sospetto si sta sollevando. Già qualche mese fa il presidente della Camera aveva chiesto al presidente della Commissione dei Lavori Pubblici, che stava lodando senza freni il progetto: ma lei parla in nome del popolo o come relatore del signor Bastoggi? Una battuta? Certo, ma preveggente, visto quello che è emerso. Dopo il sì è stato infatti scelto il consiglio di amministrazione della nuova società. 14 membri su 22 sono deputati, i vicepresidenti sono l'ex presidente del consiglio Ricasoli e il catanzarese Giovanni Baracco, il segretario e l'onorevole di Sondrio Guido Susani, il direttore tecnico e il deputato di Ceva Severino Gattoni. Qualcuno a mezza voce sostiene che di mezzo ci siano anche dei soldi. Ma sui particolari dell'affare c'è il segreto di Stato. Paolo Piacenza e il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.